d'inverno dentro me, pioggia calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, luci da follia. Quando sorridi alla fine vorrei restare lì a guardare per ore il tuo calore sulla mia pelle, lo stesso cuore che risplende sul mio viso, è inutile il sorriso che potrei farti, non voglio innamorarti inutilmente, voglio dire che non sei solo tra la gente, vorrei dire che tutto quanto poi va via, tutto quanto un pensiero ritorna, è stanco, notti di follia, a pensare all'amore, a pensare all'odio, a pensare al rancore, eppure tutte le gioie poi ritornano, svaniscono e ricordi sul tuo viso, come un cigno che aveva quel sentimento più profondo, e ora tutto è triste, tutto è tondo, il mondo fa paura se lo guardi in fondo, e tu sei... Sei pioggia d'inverno dentro me, pioggia calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, luci da follia. Eppure rimango qui ore a pensare a tutte quelle cose che non tornano leggere, rimango qui a dirti cose che non saprei mai forse, ma tutte quelle rose cinte tra le mani nei miei ricordi, portate al cielo come una preghiera vera, mistero. Di tutto quel dolore che ora è svanito nel mio cuore, rimane solo intatto il ricordo di te, di tutte quelle notti che avrei voluto tra noi, luci da follia, un'inutile bugia dirti che tu sei pioggia d'inverno dentro me, pioggia calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, luci da follia. Rimango qui a guardare il silenzio, rimango qui a guardare la mia alba, nuova mattina di te, nuova mattina di noi, e tutto quanto il ricordo torna, ma ora non fa più male, ora riesco a pensare, ora riesco a viaggiare, a navigare come una crociera, nel mio pensiero più leggera, ogni chimera sembra non tornare, ma tu sei pioggia d'inverno dentro me. Pioggia più calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, luci da follia, il pensiero mi soggiace alla mente, torno al presente, torno a quando tutto mi passava indifferente, torno a quelle ore passate leggere e in fondo non c'è, il tuo pensiero dentro me, sei nel cuore poi via, tutto quanto torna sai, ma ora non fa più male qui tra noi, perché tu sei... Tu sei pioggia d'inverno dentro me, pioggia più calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, luci da follia, eppure il mare continua a sussurrare le parole che mi portano il tuo nome leggere, quelle risate e quei tocchi di angelo, di altre persone che non camminano, corrono, e in fondo vorrei correre con loro, dire a tutti che non sono un uomo solo, dire che tu sei la più bella, dire che tu sei la mia stella, ma t'ha portato via quel mistero che non so, quella volta che non sarò, perché tu sei pioggia d'inverno dentro me, pioggia più calda che vorrei tra noi, tocco d'angelo e poi via, in fondo sei una lucida follia.